Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo pronti dal Groovemaster Studio di Radio 24 per una nuova puntata del Soundcheck, la prova del suono. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera anche al nostro comunicatore multimediale di nuova generazione, Francesco Tromba. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Mio caro Francesco, oggi abbiamo una puntata molto importante da trattare. Sì, importante, con dei temi veramente mi piacciono tantissimo, anche se non sono facilissimi da trattare in così poco tempo. Beh, ci proveremo. Noi più volte abbiamo parlato in queste due stagioni del nostro Soundcheck del rapporto splendido che deve esistere fra la musica e i bambini, perché la musica insegna molte cose ai nostri bambini. Sì, la musica è un modo per rapportarsi, è un modo sia di socializzare sia comunque di imparare delle cose per i più giovani, per i ragazzini. Quindi, al di là degli aspetti legati strettamente alla musica e agli strumenti, è importante avere un rapporto con la musica, perché la musica ci insegna tante cose. Sì, perché la musica educa alla condivisione, la solidarietà, l'incontro, lo scambio, l'accoglienza, e in questa logica quale migliore strumento per l'integrazione interculturale? Perché un bambino che fa musica sarà un uomo dalla mente aperta. E come diceva Victor Hugo, mi sono segnato questa frase bellissima: la musica esprime ciò che è impossibile da dire e su cui è impossibile tacere. E voglio anche anticipare che nella seconda parte, subito dopo l'informazione delle 20, abbiamo un ospite speciale. Speciale per me, speciale per tutti coloro che sono sensibili ai problemi dell'infanzia, perché qui nel Groovemaster Studio apparirà il presidente di UNICEF Italia, Giacomo Guerrera, e sono onorato di questa incredibile presenza. Sì, un grandissimo ospite. Io volevo aggiungere una cosa, che la musica comunque non avendo un linguaggio ben preciso è qualcosa che comunque unisce tutti i popoli in un certo senso, perché appartiene a quella dimensione dell'uomo che va oltre il linguaggio vero e proprio, quindi è dentro ognuno di noi, la musica non morirà mai, quindi è quello che potrebbe unire tutto il mondo. Esatto, anche perché la musica, lo sappiamo, abbatte qualsiasi tipo di barriera, no? Di trincea, sì, culturale, razziale, credo politico e religioso. Sì, è la cosa che unisce di più in assoluto, secondo me. Allora, voci e ritmi, sì, è così che si inizia il rapporto con la musica da parte dei bambini. Tra l'altro, l'ho detto più volte, nelle scuole americane, in alcune scuole americane, la prima lezione di musica che viene fatta ai bambini è imparare a battere le mani a tempo. Noi purtroppo in Italia non siamo bravissimi in questo. Eh sì, perché così i bambini, attraverso l'utilizzo della loro voce, attraverso l'istinto primordiale ritmico, possono scoprire, capire, apprezzare e condividere il mondo attraverso il suono di coetanei che arrivano da altri paesi, che hanno il colore della pelle diverso da loro, gli occhi a mandorla e magari parlano strano. Sì, è come dicevo, la musica unirà il mondo. Allora, diamo il via a questo appuntamento. Naturalmente cerchiamo di raccontare anche informazioni importanti, perché ci sono delle scuole di musica in giro per il mondo che hanno applicato una metodologia importante proprio per avvicinare i bambini alla musica, agli strumenti, cercando di impartire loro quegli insegnamenti fondamentali. Sì, giusto per citarne uno, José Antonio Abreu e il suo programma El Sistema in Venezuela. Venezuela è uno dei più famosi, tra l'altro è stato anche premiato dall'UNICEF, ha coinvolto quasi 2 milioni di bambini nel corso, da quando è partito, negli anni 70. Allora, il via all'appuntamento del nostro Soundcheck con No More Tears, Non Più Lacrime, Sajal Vasandhani al Soundcheck. There's no need to take down your picture, it haunts me all the same. Why even bother to delete your name? But please forgive me, there'll be no more tears. la voce educata e sensibile di Sacha Vasandani dal nuovo album. Il brano era No More Tears per questo appuntamento del Soundcheck, in attesa che arrivi il nostro illustre ospite. Subito dopo l'informazione delle 20, lo ripeto, sarà con noi il presidente di UNICEF Italia, Giacomo Guerrera, e sono emozionatissimo. Anch'io sono emozionatissimo e sono curioso di sapere dalle sue parole esattamente come funziona questa organizzazione così importante. Allora, parliamo ancora del rapporto importante che deve esistere fra i bambini e la musica, e voglio citare un musicoterapista di Pavia che si chiama Egiziano Di Leo, che scrive: la musica è un linguaggio universale, in tutte le culture del mondo si canta, si balla e si suona. I bambini hanno una predisposizione innata alla musica e a tutti sin da piccolissimi piace ascoltare musica, cantare, percuotere ritmicamente tavoli, banchi e padelle. Portare la musica a scuola, sin dalla scuola dell'infanzia, può essere importante per i bambini, che ne possono trarre diversi benefici. I bambini che imparano precocemente il valore emotivo della musica, da adulti sapranno farne anche uno strumento di aiuto e di consolazione. José Antonio Abreu l'ha capito nel 1975, quando è riuscito a convincere il governo venezuelano a farsi finanziare questo programma che si chiama appunto Il Sistema. Lui, il suo obiettivo era quello di coinvolgere tutti i ragazzi in giovane età, cioè a partire dai 3 ad arrivare fino ai 16 anni, per cercare inizialmente di strapparli alla povertà e al rischio che diventino comunque dei delinquenti. Poi in secondo luogo cercare di trasformarli in musicisti magari anche, o comunque educarli alla musica, in modo da avere un vantaggio sia a scuola, perché comunque studiando musica avrai anche un vantaggio a scuola, perché sei abituato a concentrarti per un certo numero di ore sullo studio vero e proprio, e anche le famiglie di questi ragazzini avranno comunque un'educazione di riflesso. E il maestro Abreu ha proprio ottenuto il premio da parte dell'UNICEF all'Auditorium Parco della Musica dalla parte dei bambini, per aver dedicato tutta la sua vita alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per essersi distinto nell'attività di recupero attraverso la musica di ragazzi in situazioni di grave disagio. Eccolo qui, arriva Leo Sidran, non il papà è Ben, Leo Sidran qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Lauren Vula con Green Garden qui al Soundcheck di Radio 24, in questa puntata speciale impreziosita dalla presenza del presidente dell'UNICEF Giacomo Guerrera, che sarà con noi nella seconda parte subito dopo l'informazione delle 20. Stiamo parlando del rapporto speciale che deve esistere fra la musica e i bambini, e mi vorrei rifare a uno scritto molto interessante che ho trovato in internet nel sito di SOS Razzismi, scritto dalla psicoterapeuta Rita Reggimenti. Scritto qualche anno fa, lei dice che la musica non è separata dal mondo, può aiutarci a dimenticarci di noi, al tempo stesso a capirci. In un dialogo tra due persone si aspetta che l'altro abbia finito di dire quello che ha da dire prima di rispondere o commentare. In musica invece due voci dialogano simultaneamente, ognuna si esprime nella forma più piena e al tempo stesso ascolta l'altra. Sì, si impara il rispetto reciproco praticamente. sicuramente si impara sia ad ascoltare quello che l'altro dice, sia a comunque lavorare insieme. In questo modo sicuramente i bambini hanno il loro primo approccio sociale, che poi gli sarà fondamentale nel futuro. Ecco, e la dottoressa Reggimenti si fa questa domanda: qual è l'utilità della musica? È una domanda chiaramente retorica, essendo piuttosto evidente che la musica assolve a molte funzioni differenti. E Merriam nel 1964 elencò le funzioni primarie della musica, ovvero espressione delle emozioni, piacere estetico, intrattenimento, comunicazione, rappresentazione simbolica, reazione fisica, consolidamento della comunità e delle relazioni sociali, convalida delle istituzioni sociali e dei rituali religiosi, contributo alla continuità e stabilità culturale, contributo all'integrazione della società. In un certo senso la musica è anche un valore etico vero e proprio, perché comunque ti inquadra anche come persona, ti rende un uomo in un certo senso. Lauren Wool ancora al soundcheck di Radio 24 con la Metropole Orchestra, Father Father. Soundcheck. Il suono della musica. Voci di Bobby McFerrin e Speranza Spalding in Every Time, qui al Soundcheck di Radio 24, in questa puntata dedicata al rapporto fra musica e infanzia, musica e bambini. È importante crescere con una bella colonna sonora, perché dalla musica si imparano tante cose, lo abbiamo detto, e ne parleremo fra pochissimo anche col presidente dell'UNICEF Italia, Giacomo Guerrera. Sono veramente onorato, quindi fra pochissimo, subito dopo l'informazione. Vorrei però fare anche i complimenti a un musicista italiano, il nostro amico Andrea Apostoli, che lavora per l'AIGAM, anzi è il presidente, il direttore dell'AIGAM, già ospite del Soundcheck nella passata stagione, che si è aggiudicato un premio molto importante proprio per musica e bambini. Sì, l'AIGAM è l'associazione italiana Gordon per l'apprendimento musicale. Praticamente utilizzano questo metodo che si chiama metodo Gordon, che ha tutte delle tecniche particolari per coinvolgere ulteriormente i bambini e per non farli apprendere quasi senza neanche accorgersene. Allora, Andrea Apostoli è un eccellente flautista e dedica ormai da anni la sua vita a orchestre formate da giovanissimi, e come dicevo ha vinto questo premio importantissimo in Germania, collaborando addirittura con i Berliner, quindi una grande orchestra sinfonica. Ecco, i Berliner hanno collaborato anche il programma di Abreu, perché ad esempio ha fornito un contrabbassista già quando aveva 16 anni all'orchestra dei Berliner. Adesso è in lizza anche Gustavo Dudamel, uno dei più giovani direttori d'orchestra della storia della musica classica, per diventare direttore d'orchestra proprio dei Berliner. Allora, aspettiamo che faccia l'ingresso nel nostro studio il presidente dell'UNICEF, Giacomo Guerrera. Parleremo con lui del lavoro che svolge questa incredibile organizzazione in Italia e nel mondo. Ci faremo raccontare un bel po' di cose. Sì, sono curiosissimo. Benissimo, ci sentiamo fra pochissimo, subito dopo l'informazione delle 20 qui su Radio 24. Thank you. Soundcheck. Il suono della musica. Eccoci pronti dal Groovemaster Studio per la seconda parte del soundcheck di oggi, soundcheck dedicato ai bambini, soundcheck dedicato come sempre alla musica, al rapporto fra i bambini e la musica, e sono onorato, felice di ospitare nel nostro studio qui su Radio 24 il presidente UNICEF Italia, Giacomo Guerrero. È un grandissimo onore per me, Giacomo. Ti do del tu perché me l'hai chiesto tu, eh? Certo. Non mi permetterei mai di dare del tu a un presidente senza il permesso ufficiale. Grazie e benvenuto. Per noi è un piacere, per me è un piacere poterti darti del su e accoglierti nella una famiglia, evento che abbiamo celebrato qualche giorno addietro, il 23 di maggio. Io non ho raccontato nulla ai radioascoltatori. Adesso però lo facciamo sapere perché è importante questo. Noi come UNICEF abbiamo nominato Gegé Telesforo Testimonial UNICEF. Cosa vuol dire questo per noi? Vuol dire quando un artista, come sei tu, un artista, nelle varie espressioni dell'arte, ovviamente, in questo caso della musica, è disposto a dedicare parte del suo tempo all'infanzia e mettendo al centro un'attenzione particolare a quella che è le condizioni dell'infanzia, non soltanto in Italia ma nel mondo. E tu l'hai fatto, l'hai già fatto con successo anche prima di questa nomina, e con questa nomina comincerà con noi un percorso nuovo, al quale noi ci apriamo completamente nei tuoi confronti, perché grazie, ti conosciamo, grazie. Come sei bravo dal punto di vista professionale e che aiuto potrei darci in questa direzione. Grazie, tu sai che stiamo lavorando insieme su un progetto importante, speriamo di realizzarlo, che coinvolgerà musicisti e grande musica, proprio certo, per sostenere il lavoro importante dell'UNICEF. Ma prima di entrare nell'argomento e di raccontare che cos'è l'UNICEF, perché magari i nostri radioascoltatori non hanno capito bene come funziona questa incredibile organizzazione a livello planetario, io vorrei chiederti del tuo rapporto con la musica, di quando eri bambino, che musica ascoltavi e quanto è stato importante per la tua formazione di uomo la musica? Guarda, il mio rapporto con la musica, io ho vissuto con la musica un rapporto particolare, perché mia madre, che era diplomata al conservatorio più che decennale, perché lei ha frequentato, ha lavorato parecchio anche con il maestro Pregadio, non è giovanissimo, ma naturalmente l'ho conosciuto e ci ho anche lavorato con Pregadio. Io ero la disperazione di mia madre, perché sentivo la musica come la sento ancora, un grande appassionato di musica, però non sapevo avvicinarmi, cioè lei ha cercato di tutto per farmi suonare il pianoforte, per farmi suonare uno strumento, per educarmi in termini attivi ovviamente alla musica, e purtroppo sono stata una delusione per mia madre sotto questo aspetto, però sono stato sempre un grande appassionato. Io sono in grado, ascoltando un'orchestra, dirti qual è lo strumento che stona, perché sento la musica dentro di me, mi piace tanto ballare, però non sono riuscito a soddisfare quello che era il sogno di mia madre. Beh, è comunque una soddisfazione per tutti noi sapere che il presidente dell'UNICEF Italia ha orecchio. No, senz'altro, questo sì. E non solo un grande cuore, perché per fare ricoprire il ruolo che tu svolgi ormai da qualche anno ci vuole grande cuore, grandissima sensibilità. Ci vuole passione, bisogna dedicare più che il tempo, ma bisogna dedicarci il cuore, come dicevi tu, la passione per realizzare quelli che sono i sogni, bisogna sognare, i sogni sono tutto per l'uomo. Quanto è importante per i bambini la musica? Beh, guarda, io ritengo che per i bambini sia la cosa più importante. Io ho avuto modo di verificare questa importanza anche nei paesi che ho visitato. Io ho visitato paesi, ho visitato naturalmente nella parte non turistica di molti paesi che hanno sempre un'area turistica, ma all'interno dove c'è la vera povertà e dove c'è la vera condizione di disagio da parte dei bambini. E ho avuto modo di vedere come questi bambini vengono coinvolti dalla musica. Per loro è un momento di svago, è un momento nel quale riescono ad esprimersi veramente e a condividere con altri il gioco, la speranza in un avvenire diverso, la possibilità di dialogare con gli altri, ed è poi questo che la musica porta ai bambini. Lo fa nei paesi, come dicevo prima, più svantaggiati rispetto al nostro, ma questo stesso si realizza anche in Italia, anzi io penso che ci sarà un impegno da parte tua in un progetto che vorremmo realizzare in tutte le scuole italiane, perché vedi, dire, noi come UNICEF, mi hai fatto una domanda dicendo che cos'è l'UNICEF, un passaggio brevissimo, siamo accreditati nell'opinione pubblica come un organismo che guarda lontano. Noi vogliamo essere accreditati come un organismo strabico che sa guardare contemporaneamente il lontano e il vicino, perché sono molte le iniziative che realizziamo per i bambini italiani, che è altrettanto importante come per i bambini che vivono nei paesi più poveri del mondo, perché purtroppo in Italia, dove tante situazioni si verificano e che colpiscono l'infanzia, c'è una condizione che avanza in maniera preoccupante, che è la povertà. E la povertà è alla base di tutto, è alla base di qualsiasi forma di violenza, e quindi è su quello che bisogna agire, ma soprattutto bisogna cercare di recuperare l'entusiasmo dei bambini, che è sempre tanto, e la musica pensiamo noi che sia un'occasione importante per procedere in questa direzione. E allora, visto che hai orecchio, Presidente, ti faccio ascoltare un artista contemporaneo, si chiama Robert Glasper, eccellente pianista, che con una bravissima Lala Hathaway, figlia d'arte, figlia di Donny Hathaway, realizza questa versione di Jesus Children, composizione di Stevie Wonder, qui al Soundcheck di Radio 24. Hello Jesus, Jesus Children, Jesus loves you, Jesus Children. Hello Children, Jesus loves you of America. Are you hearing what he's saying? Are you feeling what you're praying? Are you hearing, praying, feeling what you say inside? Ooh. Fly high. Shine and fly high. And fly high. And fly high. Fly high, fly high, fly high, fly high, fly high, fly high. Sound check, il suono della musica. Stevie Wonder al Soundcheck di Radio 24, con un successo di quando era proprio ragazzino, mio caro Francesco Tromba, intitolato Fingertips, e abbiamo nostro ospite, lo ripeto, il presidente di UNICEF Italia, Giacomo Guerrera. Ci ha raccontato il suo rapporto con la musica, la mamma suonava il pianoforte e non ha trovato pane per i suoi denti, fammelo dire, perché caro presidente, mi sa che hai soltanto l'orecchio, però gli strumenti non fanno al tuo caso. Allora, abbiamo raccontato un po' dell'organizzazione dell'UNICEF e vorrei sapere le priorità di UNICEF Italia nel nostro paese. Guarda, le priorità dell'UNICEF Italia nel nostro paese. Nel nostro paese. Guardiamo quindi. Guarda, io ho sentito due cose. Scusami, ti interrompo un secondo perché ci sono due cose che mi hanno molto colpito. Intanto il bambino che è entrato in classe facendo il saluto fascista, e già mi sembra una cosa terribile. L'altra cosa è del bambino musulmano a Vicenza che, dispiaciuto, ha salutato la maestra dicendole: maestra, mi dispiace per te perché ti taglieranno la testa. Quindi che cosa significa? Che in famiglia succedono delle cose terribili. È proprio così, hai detto benissimo, e quindi fra le nostre priorità, possiamo dire fra la priorità essenziale di chi agisce per l'infanzia, c'è prima di tutto il rispetto della Convenzione, che è la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, che è stata scritta per adulti ma per altri adulti e deve essere tradotta concretamente proprio dappertutto, anche nel nostro paese, perché anche noi come Italia abbiamo ratificato questa Convenzione e l'abbiamo inserita come norma del nostro ordinamento giuridico. I principi, ci sono dei principi fondamentali nella Convenzione. Il primo principio al quale noi teniamo tanto e verso il quale lavoriamo molto nella nostra azione proprio di advocacy, noi diciamo, di coinvolgimento per quanto riguarda i bambini, ma non soltanto i bambini, è proprio la non discriminazione, saper accogliere il diverso. Cosa vuol dire questo per noi? Questo per noi vuol dire educare, ma non soltanto i bambini. perché io ti assicuro che per quanto riguarda, ho avuto modo di girare in molte scuole, ho incontrato molti bambini, ma soprattutto all'interno delle aule, e vedendo e parlando con i bambini noti che non c'è discriminazione, siamo noi adulti che molto spesso abituiamo in maniera distorta i bambini a concepire il rapporto con l'altro. E quindi il nostro progetto, che è un progetto Io come tu, ha proprio come scopo essenziale quello di educare i bambini a rispettare gli altri, a rispettare il diverso, a non aver paura del diverso. È qualcosa di naturale in noi aver paura del diverso, però il diverso è uno come noi e noi dobbiamo saperlo prima di tutto accogliere al nostro interno. Quindi il nostro paese, che sta diventando col tempo un paese multietnico, nel nostro paese la priorità non è la malnutrizione, naturalmente, però l'educazione. La priorità è sicuramente l'educazione, dove l'educazione per noi è fondamentale. Dal punto di vista culturale questi problemi si affrontano, non da un punto di vista impositivo, imponendo delle regole che molto spesso vengono percepite in maniera distorta, e dal punto di vista educativo, cioè quindi del coinvolgimento delle persone e soprattutto dei bambini, e non soltanto dei bambini. Io volevo fare una domanda sui criteri, diciamo, dei mass media. Cioè spesso si utilizzano dei criteri molto spietati, quindi diciamo è molto più difficile riuscire ad inserirsi sui mass media con la vostra comunicazione, spesso quando magari anche si tratta di eventi, di notizie positive, perché spesso trovano più spazio notizie negative. Perfetto. Quindi come fate ad inserirvi in questo... È la cosa più difficile, e l'hai detto, è giusto quello che dici. E noi cerchiamo di fare il possibile per far veicolare delle informazioni positive, perché l'educazione è un'informazione positiva, chiaramente, che noi realizziamo, e lo realizziamo attraverso delle proposte concrete. Però le nostre azioni in questo senso cozzano con lo scarso interesse da parte dei media, ai quali interessano i fatti: il bambino che ha fatto il saluto fascista, il bambino che ha maltrattato un altro bambino, e poi si ferma lì l'informazione. Non c'è nulla che continui nel senso di dire bisogna invece lavorare a questo modo, bisogna cercare di accogliere gli altri, bisogna cercare di aprirsi al dialogo e quindi guardare gli altri in maniera diversa. Ecco, di tutto questo posso dire che sicuramente, e qui ringrazio naturalmente la radio e questa intervista che mi dà la possibilità di far presente questo aspetto, che è la cosa per noi che ci addolora maggiormente. Perché noi andiamo sulle prime pagine del giornale quando comunichiamo il terremoto del Nepal, quando comunichiamo i disastri che avvengono, però non andiamo sulle prime pagine del giornale per quello che riguardano i nostri programmi, che sono tantissimi, che vengono realizzati per cercare di educare. Ecco perché abbiamo nominato testimoni alle 11, perché chiediamo aiuto anche a lui, a questo modo, per far passare i messaggi positivi. È l'unico modo per farlo. E li lanceremo fra pochissimo, dopo aver ascoltato Jackson 5 con Michael Jackson. Ti piaceva Michael Jackson? Sì, tantissimo. Eccolo qui, ragazzino proprio, ragazzino Michael Jackson, I Want You Back. Soundcheck, il suono della musica. Everybody singing together, sing a new song. Put your lighter in the air for love. It's beautiful, beautiful, beautiful. Let me say yeah, yeah, yeah. It's suono di Mali Music con Beautiful qui al Soundcheck Radio 24. Nostro ospite il presidente dell'Unicef Italia, Giacomo Guerrera. Abbiamo parlato che la comunicazione in Italia, ma nel mondo, nei confronti dell'Unicef avviene spesso quando ci sono catastrofi che bisogna comunicare, ci sono delle priorità importanti, però ci sono anche dei messaggi positivi che Unicef Italia, per esempio, vuole comunicare. Tipo cosa, presidente? Guarda, se parliamo a livello internazionale ci sono dei messaggi positivi, perché abbiamo assistito recentemente che in Sud Sudan, ma in altri paesi, sono stati liberati dei bambini che precedentemente erano stati coinvolti nei conflitti armati o che erano stati sequestrati, e quindi un tema, cioè una notizia positiva, e che ha la sorte di tutte le notizie positive. In Italia quello che è importante comunicare in Italia è anche il progetto che probabilmente, anche che sicuramente realizzeremo anche col tuo aiuto, è quello di educare i bambini alla musica, di educare i bambini a questo tipo di comunicazione, che è fondamentale ed offre tante possibilità ai bambini per cercare di incontrare gli altri, per cercare di dialogare con gli altri, perché quello che si ottiene attraverso la musica, e che è un altro principio fondamentale della convenzione, che è l'ascolto. La musica ti aiuta ad ascoltare un suono, ma ti aiuta anche ad ascoltare gli altri. Questo è l'importante della musica, che non va sottovalutato. Ti aiuta e ti abitua all'ascolto, e questo direi che è uno degli aspetti fondamentali che non va sottaciuto. Quello che noi facciamo in Italia e quello che noi continuiamo a proporre alle scuole, alle scuole di ogni ordine e grado, anche all'università, ma anche nella società civile, parliamo degli ospedali, delle comunità, dei centri sanitari, delle comunità sanitarie che sono che si sviluppano in tutto il nostro paese. Noi abbiamo recentemente, io personalmente ho proprio inaugurato un corso, cioè ho concluso veramente, non inaugurato, sì, è sì. stata la consegna dei diplomi, di un diploma di laurea sull'allattamento al seno, perché l'allattamento al seno è un'altra delle iniziative che noi proponiamo come attenzione nei confronti dell'infanzia. L'allattamento al seno è una pratica, direi, abbastanza semplice, naturale, però ha bisogno di aiuto per praticarla, per continuarla soprattutto, perché si inizia nei primi giorni e poi dopo si viene sospeso, ed è fondamentale. Quindi facciamo tutta un'azione di sensibilizzazione su temi diversi, ma che riguardano sicuramente l'infanzia, fatto proprio per cercare di portare al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica questi argomenti, che servono per rilanciare e per far crescere una società diversa. E noi diciamo una società a misura di bambino, perché questo è il risultato che vogliamo raggiungere. Soundcheck, il suono della musica. When your money's gone and the spending is, they just don't come around anymore. Eh sì, una vecchia composizione di Billie Holiday, God Bless the Child, ma nella versione contemporanea di Al Jarreau, George Benson, e la partecipazione di Jill Scott in questa puntata dedicata ai bambini, anche per la presenza del nostro presidente, il presidente dell'Unicef Italia, Giacomo Guerrera. Presidente, l'Italia è uno dei paesi più attenti alle problematiche dell'infanzia, e lo dimostrano i piccoli e grandi donatori italiani che hanno portato il nostro paese paese fra i 150 che hanno aderito alla carta al nono posto, credo, no? Per donazioni. Per donazione, nono posto da parte dei cittadini, da parte degli italiani. Purtroppo come governo non siamo in una posizione altrettanto dire apprezzabile da un punto di vista internazionale, ma questo non vuol dire. Parliamo degli italiani, che il cuore degli italiani è immenso. Lo abbiamo verificato recentemente per quanto riguarda la situazione che è avvenuta, sì, in Nepola. Io sento di dover ringraziare in questo momento, l'ho già fatto altre volte ma lo voglio ripetere ancora oggi, tutti coloro che hanno partecipato a questa galera di solidarietà che ci ha consentito di mettere assieme alcuni milioni di euro che abbiamo trasferito proprio direttamente per interventi proprio in questa occasione. E per quanto riguarda l'SMS, che era ormai scaduto come termine, ma più di 1,5 milioni di euro abbiamo raccolto, quasi 1,200,000 italiani che hanno mandato, che si sono trasformati poi in medicinali, antibiotici, si sono trasformati in quello che serve in questo momento. Non dobbiamo dimenticarlo, perché in questo momento in Nepal, che fra non molto arriveranno le piogge o sono lì quasi arrivate, c'è bisogno delle tende, c'è bisogno delle zanzariere, c'è bisogno di materiale che serva proprio per quella che è la situazione del momento. Quindi io voglio dire che l'italiano è una persona generosissima, l'italiano ha sempre partecipato a questo e quindi ancora oggi desidero ringraziarlo. E ringraziamo anche i volontari dell'UNICEF, il loro ruolo è fondamentale per voi. A questo punto, posso dire per noi? Bravo, bravissimo, perché tu di fatto sei un volontario esatto. UNICEF, puoi dire sicuramente per noi, perché il ruolo dei volontari è fondamentale, perché i volontari che agiscono per la nostra organizzazione, che sono all'interno della nostra, sono presenti capillarmente sul territorio nazionale, circa 6.000 volontari in Italia partecipano all'iniziativa diverse che si realizzano, che partono da una indicazione nazionale, ma che poi si realizzano nel quotidiano nelle diverse province, nei diversi comuni, continuamente. Prima parlava appunto di quanto è importante ascoltare. Io mi ricordo quando ero piccolo, in tutte le famiglie, spesso quando si è in tanti, nelle occasioni, ad esempio a Natale, a Pasqua, si fa il tavolo dei bambini. A volte le famiglie in primo luogo sono quelle che non ascoltano i bambini, quindi quanto è importante ascoltare e dare voce ai bambini. È importantissimo, perché hai detto una cosa importante sotto questo aspetto, perché quello che noi facciamo a scuola, nel nostro programma di educazione allo sviluppo, nelle scuole, per cercare di coinvolgere i bambini, dice, perché coinvolgete i bambini? Innanzitutto perché i bambini sono quelli che maggiormente sono delle spugne, che ricevono maggiormente, e assimilano maggiormente i messaggi. Cose belle e cose brutte, ma guardiamo il bello per il momento, sì. Il brutto lo mettiamo un pochino da parte. Ma poi sono loro che lo trasmettono alla famiglia. A un bambino che comunichi qualcosa di importante sotto questo aspetto, c'è la possibilità del ritorno poi in famiglia della comunicazione, quindi far conoscere ai genitori questo. Però io desidero anche ringraziare, tu me lo sollecitavi prima, e questa è un'occasione che non voglio perdere sotto questo aspetto, non soltanto gli italiani ma anche i nostri volontari, perché gli italiani si hanno partecipato, lo hanno fatto anche attraverso gli stimoli che sono arrivati loro dai nostri volontari che operano sul territorio nazionale. Grazie al presidente Giacomo Guerrera, presidente dell'UNICEF, per la partecipazione. Purtroppo, presidente, il tempo è volato. Io però ti vorrei consigliare magari di pensare anche a una carriera radiofonica. È formidabile il presidente. Sì, ha una gran bella voce. Grazie. Noi ci rivediamo prestissimo per continuare la nostra collaborazione, andare avanti con il nostro progetto legato alla musica. Io ringrazio tutti i radioascoltatori di Radio 24 e naturalmente tutti gli italiani generosi che prenderanno informazioni attraverso il sito ufficiale di UNICEF Italia e potranno continuare con generosità le donazioni anche al di là delle priorità. Possiamo citare il sito? Certo. www.unicef.it. Facilissimo, non si può sbagliare. E troverete tutte le possibilità per donare all'UNICEF. Grazie Presidente. Noi ci risentiamo domani, sempre su questi schermi, sempre su Radio 24 con il Soundcheck. A tutti voi buona serata e buona musica da Giorgio Telesforo. E da Francesco Trombo. Grazie Presidente. Yo, everybody come get your bounce on, get your bounce on, get your bounce on. Don't be cute with it, you gotta get, come on. Fifth one, fourth one. Come on, sing it. When I close my eyes, I think of you and reminisce on all the things.